Oggi pomeriggio dalle 19 saremo in piazza 8 agosto, saremo in piazza per Giulia, per tutte, perché non ne possiamo più, perché il numero di femminicidi, perché dobbiamo opporci alla violenza che continuiamo a subire. Noi organizziamo la nostra rabbia da 8 anni ormai, soprattutto adesso sentiamo il bisogno e la necessità di scendere in piazza, visto tutto quello che sta succedendo. Ci stanno scrivendo in tantissime, quindi sentiamo anche l'esigenza di portare tante voci nuove in piazza, di riempirla proprio con una rabbia che sentiamo essere pervasiva in questo momento. Sono state molto importanti le parole della sorella di Giulia, Elena. Come giudicate il dibattito che si sta sviluppando in Italia? Elena ci ha dato una forza incredibile, ha dato una lettura lucidissima di tutto quello che sta succedendo. Il dibattito è un dibattito a tratti svilente. Noi vogliamo concentrarci su quello che ci dice Elena, sul fatto che la violenza patriarcale è complessa, piena di sfaccettature, che è violenza anche e soprattutto istituzionale, che questi femminicidi sono omicidi di Stato e questa cosa va detta. Abbiamo anche letto ironicamente alcune delle cose che sono state fatte, per esempio la Polizia di Stato che condivide la poesia dell'attivista messicana, che è la nostra parola d'ordine da 8 anni, e ci sembra assurdo quando comunque la Polizia è la prima che non accoglie le nostre denunce. È assurdo nel momento in cui denunciare non basta mai. Oggi siamo in presidio, per esempio questa mattina, davanti al Tribunale di Bologna, perché c'è la sentenza d'appello per il femminicidio di Juana Cecilia. Juana Cecilia è una donna che è vittima di femminicidio, è stata uccisa dall'ex compagno a Reggio nel 2021 e lei aveva denunciato e aveva provato a sfuggire alla violenza, eppure le istituzioni non sono state a sentire e questo è stato il risultato. Quindi il dibattito ci sembra assurdo, ma noi abbiamo apprezzato e vogliamo stare a sentire Elena, la sorella, perché lei è stata lucidissima e ha detto le cose come stanno. Sabato la mobilità nazionale con due manifestazioni nazionali, appunto una a Roma e una a Messina. Lo slogan di quest'anno è "Transfemministe ingovernabili". Cosa significa? Quest'anno, appunto, come dicevo prima, è l'ottavo anno consecutivo in cui scendiamo in piazza. Siamo ingovernabili perché, nonostante tutto, noi continuiamo ad organizzarci, continuiamo ad organizzare la nostra rabbia, continuiamo ad opporci a governi che si susseguono, che continuano a non fare nulla per la situazione che noi denunciamo da anni. Volevamo esprimere tutto il nostro dissenso nei confronti di un governo che usa le donne solo per portare avanti la propria politica securitaria, la propria politica razzista, che veramente fa dei discorsi strumentalissimi. E noi vogliamo opporci a questo, vogliamo scendere in piazza per dire che a noi questa cosa non va bene e che essere contro, opporci alla violenza patriarcale è una cosa ben diversa. Da Bologna partiranno dei pullman? Sì, sono tantissimi. Abbiamo raggiunto 7 pullman e non bastano perché continuano ad arrivarci richieste, quindi noi questa settimana siamo state piene di dolore, poi collettivamente abbiamo trasformato il dolore in rabbia e adesso onestamente siamo anche piene di gioia, perché è bello vedere che tante persone sentono la necessità di scendere. Per noi il movimento è fatto proprio da tutte queste persone che poi le piazze se le prendono e che scendono con noi in bus, 7 bus.